e va a educare le persone. Ed è invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, è sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. Ed è invivibile comunque. Trova ad essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. Scusate, un piccolo problema al microfono. Dunque, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Dunque, oggi è 13 di maggio, una giornata calda di sole qui a Roma, e d'altronde a Roma ci ascoltano via etere. Anche se poi potete ascoltare, chi vuole riascoltare questa trasmissione, questa come altre trasmissioni, le può trovare in podcast, quindi da qualunque parte del mondo si possono scaricare e riascoltare. Allora, sono le 15:03 primi, e quindi buona libertà a tutti e tutte. Cosa dire? Allora, i giornali hanno sparato lì una notizia proprio questa mattina, le agenzie eccetera, e da ieri a oggi, però insomma non commentate, quindi non si sa niente. Pare che ci sia stato, anzi questo c'è stato sicuramente, l'incontro tra il ministro Orlando e i radicali Pannella e la Bernardini, però non si sa che cosa siano detti, e i giornalisti hanno cercato un po' di dire probabilmente, forse, però ovviamente tutte illazioni con nessuna prova. Quindi i giornalisti dicevano che probabilmente hanno parlato dell'indulto da dare alle persone che stanno in carcere, quindi rinchiuse perché condannate per la legge Fini-Giovanardi, quindi per consumo di sostanze stupefacenti. Questo perché, l'abbiamo detto mille volte, quindi lo sapete benissimo, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge Fini-Giovanardi nella parte in cui appunto aumenta le pene soprattutto per i consumatori o i piccoli spacciatori, ma non tanto nel contenuto. La Corte Costituzionale in genere si sofferma non tanto sul contenuto delle leggi quanto sulla loro, sulla procedura che ha permesso l'approvazione di quella legge. E la Fini-Giovanardi è stata approvata all'interno di un pacchetto di misure che nascondevano un po' la natura della stessa Fini-Giovanardi, per questo l'ha dichiarata non legale. Quindi tutti quelli in via di giudizio per la Fini-Giovanardi sono stati ovviamente scarcerati, quelli che erano stati condannati in via definitiva c'è tutto un meccanismo complesso per farli uscire. Probabilmente si potrebbe appunto fare, come chiedeva Pannella e chiedevano altri, un provvedimento di indulto specifico per le persone che sono state condannate per la fine, a causa della Fini-Giovanardi, della legge Fini-Giovanardi, e quindi queste persone potrebbero uscire. Però non si sa, queste sono illazioni, valutazioni dei giornalisti a proposito di questo incontro tra il ministro Orlando e alcuni radicali, come diciamo in specifico Pannella e la Rita Bernardini. Questo è quanto hanno battuto ieri le agenzie, ma intanto noi volevamo però parlare su un... è uscita su diversi giornali, si trova anche in internet, chi sta fuori la può rileggere, comunque ne proveremo a leggere alcuni aspetti, un'intervista fatta a Luigi Manconi, senatore del PD, che come avevamo detto già due volte fa e poi anche l'altra volta ha scritto un libretto, un piccolo libro in cui si dice il carcere va abolito. Questo è il titolo del libro, un sottotitolo, una proposta estrema ma ragionevole, e questo è il vedremo quindi che dice, perché come dire, poi ne entreremo nel merito. L'altra volta già avevo accennato alcuni elementi di critica, perché il problema, secondo me, io parlo da come si dice in gergo carcerario, detenuto di lungo corso. I detenuti di lungo corso sono quelli che hanno fatto la galera o la stanno facendo per molti anni, non 3, 4 anni, 5 anni, per molti decenni. Ecco, un detenuto di lungo corso è uno che ha fatto il carcere per diversi decenni, quindi praticamente quasi il massimo, e quindi conosce un po' tutto, non solo i meccanismi propri del carcere, no? La squadretta, la conta, tutti gli impicci, imbrogli che caratterizzano la giornata del detenuto, ma soprattutto i meccanismi più importanti, come resistere alla galera, come non farsi distruggere dalla galera, perché il carcere serve a distruggere la persona, quindi come mettere in moto tutti quei meccanismi in grado di resistere, e soprattutto anche come il sistema di potere, quindi Parlamento, governo, istituzioni eccetera, gestiscono il carcere, perché il carcere lo gestiscono loro. E mettono in moto tutti quei meccanismi, leggi particolari o leggi generali, legge quadro o leggi specifiche, e poi regolamenti e altri regolamenti, che in realtà non cambiano la natura del carcere, se non a volte peggiorandolo. Per questo poi noi detenuti di lungo corso, ma anche tutte le persone che hanno un po' di buon senso, dicono che il carcere non è riformabile, proprio per questo motivo, perché non basta fare una leggina o anche una leggiona, una grossa legge che sia in grado di modificare i rapporti tra quei due gruppi umani, carcerati e carcerieri, che ovviamente stanno l'un contro l'altro, anche armati, ovviamente, come si suol dire, l'un contro l'altro armati, perché le esigenze dell'uno sono state messe in completa contrapposizione a quelle dell'altro. L'uno chiude la cella, l'altro la vorrebbe tenere aperta, l'uno impedisce i movimenti, l'altro li vorrebbe massificare, cioè estendere. L'uno vuol tenere chiusa quella persona immobile, più sta immobile il detenuto, più il carceriere fatica di meno. Al contrario, il carcerato dovrebbe muoversi a rotta di collo, anche su e giù dalla mattina alla sera, per almeno per stancare le gambe, che invece stanno immobili e si stancano per immobilità, non per mobilità. Insomma, il carcere è stato fondato proprio per creare l'astio di un gruppo di persone chiamate carcerieri, pagati in quanto guardie carcerarie, e un gruppo umano vasto, vastissimo, che poi esce e entra, però è molto vasto, che matura odio verso il carcere, verso i carcerieri e verso tutta la struttura sociale che costruisce il carcere e che lo riproduce. questo è il quadro. Una leggina, un regolamento non modifica questo rapporto, che è un rapporto di odio e di astio. I carcerati odiano la struttura carceraria e tutti quelli che la mantengono in piedi. I carcerieri hanno astio verso queste persone perché gli creano delle difficoltà di lavoro, gli creano fatica. Quando un detenuto chiama la guardia, mettiamo alle 11 di sera, è chiaro che la guardia si scoccia, stava leggendo un giornaletto o facendo le parole incrociate o qualche altra cosa, seduto da una parte, deve alzarsi, mettersi in moto, e quindi è che, come vedete, ma questi e mille altri meccanismi. Considerate che ogni attività del carcerato è un più lavoro per il carceriere. Il carcerato che dorme dalla mattina alla sera è un piacere per il carceriere. Un carcerato che vuole muoversi, parlare, dire e vivere è chiaramente un problema per la guardia. Questo è stato costruito, questo inferno diabolico tremendo, che è chiaramente, per come è fatto, lo capisce anche qualunque persona, non è necessario studiare, basta ragionare col buon senso, si capisce che un sistema congegnato così non può permettere, cioè non può solo peggiorare i due gruppi umani che stanno da una parte e dall'altra parte del cancello. È indubbio che sia così, e difatti è stato fatto così proprio per creare il terrore. Il terrore di Stato, la parola terrore è una parola che proviene dalle attività degli stati moderni, nati appunto intorno al 500-600 in varie parti del mondo, in alcune parti sono arrivati più tardi, che avevano bisogno di terrorizzare la propria popolazione per imporgli dei comportamenti abbastanza omologati. E la popolazione doveva abituarsi a un ritmo di vita che era andare a dormire presto, svegliarsi la mattina prima dell'alba, andare a lavorare in fabbrica, poi uscire, andare a dormire, la mattina fare lo stesso ciclo. Questo era il, ovviamente gli esseri umani stentavano a prendere questo ritmo, questa disciplina di vita, e quindi il terrore serviva a imporgli questo ritmo di vita, questi comportamenti, a vivere uno attaccato all'altro in piccole case, in piccoli toguri sporchi e malodoranti, e non dire niente. Questo doveva servire il carcere, e questo in effetti è servito. Il problema è che tutti i grandi riformatori di questo mondo, a partire dai grandi nomi, non so, Tocqueville, Bentham, anche i nostri, no? Beccaria, che sono un po' eroi del carcere, perché hanno detto delle cose di abbellire il carcere, di farlo. In realtà non hanno fatto nient'altro, in qualche caso l'hanno anche peggiorato, forse al di là della loro volontà, perché non capivano, non conoscevano, non hanno capito nulla del sistema che infligge sofferenza. Pensavano che il carcere fosse così una sorta di scuola che, se fatta bene, può educare i bambini e le bambine, e manco quello poi funziona. Comunque pensavano qualcosa del genere, ma il carcere è molto diverso, è un'altra cosa, appunto, è terrore di Stato. E quindi, per quanto lo vuoi abbellire, non ci riesci, ma soprattutto non riesci a modificarne il rapporto tra questi due gruppi umani, carcerati e carcerieri, con delle leggi, perché le leggi non modificano i comportamenti delle persone, non serve a niente. E quindi praticamente quello che dico è che non servono le leggi, i provvedimenti legislativi per modificare dei comportamenti sociali alla cui base c'è la condizione materiale basilare di gruppi umani, così come il lavoro, no? Se dice, per esempio, eliminiamo il furto, e potete mettere anche la pena dell'ergastolo per un furto, negli Stati Uniti d'America quasi ci sono arrivati, al terzo furto ti prendi la pena infinita, il terzo strike si chiama così, un qualunque reato ripetuto tre volte, la pena diventa infinita. E non l'hanno eliminato perché il furto, nella maggior parte dei casi, è prodotto dalla mancanza di un reddito. Allora, se uno vuole ridurre il furto, non dico proprio eliminare, perché poi 100% non si raggiunge mai, però se vuoi ridurlo all'80-90%, devi intervenire sulla condizione economica, non quindi con una leggina leggetta, ma il problema non è mai legislativo, non è mai giudiziario, è sempre economico nella gran parte delle se vuoi eliminare, che so, per esempio, ecco, devi intervenire, che so, si parla di camorra, mafia, eccetera. Bene, quella, la potenza di queste strutture di malavita organizzata, non a caso si sviluppano e prendono piede in luoghi dove il lavoro non c'è, il reddito è scarso, la vita è grama, la povertà è assoluta. È chiaro, come mai non si sviluppano in posti, rarissimi posti, dove invece la gente ha un lavoro ben retribuito, nemmeno faticoso, eccetera eccetera. Il 2 più 2 fa 4. Quindi non, la mafia si combatte facendo delle grosse cambiamenti economici, è chiaro, no? Non si batte con il poliziotto, col carabiniere, perché se arrestano un mafioso ne producono due, questo dicono le statistiche e dice il buonsenso, e dice quindi non è arrestando il mafioso che si elimina la mafia, è togliendo le basi sociali in cui alligna, si sviluppa, e quindi modificando la struttura economica di quei paesi. Quando per esempio nell'immediato dopoguerra, nel secondo dopoguerra, 70 anni fa, 60 anni fa, i contadini, i braccianti della Sicilia svilupparono un grosso movimento di occupazione delle terre, levandole ai latifondisti mafiosi, e quella poteva essere, se appoggiato dai partiti e dai governi, quel movimento poteva essere veramente la fine della mafia in Sicilia. In realtà i carabinieri, la polizia, il governo, lo Stato e anche gran parte dei partiti, quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti, hanno boicottato quel movimento, l'hanno distrutto, gli hanno sparato addosso. Allora l'alternativa per i braccianti non era quello che mettersi nelle mani della malavita organizzata. Queste sono le così funziona il mondo, non funziona con le leggi. Per questo il discorso, quindi il problema, se si vuole criticare il carcere, e lo si deve fare, non bisogna subito proporre l'alternativa no al carcere, sì a qualche, che so, ai lavori, come dicono socialmente. Non è così che si fa. Prima bisogna mettere in luce le nefandezze del carcere, perché è un inferno vergognoso, schifoso, vigliacco, che solo i vigliacchi, gli esseri abietti e schifosi pensano che sia utile il carcere. Bisogna metterlo in discussione per levare le ideologie fantastiche e nevrotiche delle persone che appunto pensano che il carcere sia utile, e poi da lì sviluppare un grosso dibattito a cui devono partecipare tutta la popolazione, per trovare sistemi sanzionatori alternativi, completamente diversi e alternativi da quelli di togliere la libertà, di togliere la vita, di imporre la sofferenza. Cioè, solo così, sì, no? È inutile cercare la ricettina facile facile fatta da qualche leaderino. Ma chiudiamo qui la situazione e passiamo alla lettura, dopo questo piccolo stacco musicale, alla lettura dell'intervista che fa una giornalista, Chiara Rizzo, di Tempi, a Luigi Manconi. Sono qui adesso. Cammino a mezza e faccio sposo. Lo facile, nessun posto è raggiungibile. Si sente il cuore, dici, aspetto, aspetto, aspetto qualcosa che forse non verrà mai. E che triste ama come nessun altro. Che triste ama come nessun altro. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Come un volo leggero che uccide. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Aspetto, rispetto, resisto. Affondo le unghie affilate nel petto. Non riesco a pensare, non riesco a capire il momento giusto, il modo di agire. Lo vedo un riflesso, la rabbia di amore che brucia, per questo adesso è tutto più semplice, semplice. Come un volo leggero che uccide. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Allora, eccoci qua. Dunque, cominciamo a dire, leviamo la premessa. Senatore Manconi, il libro inizia, l'inizio del libro, che non ho letto ancora per intero, comunque, e l'inizio in questa intervista è veramente preoccupante. E comunque leggiamolo. Senatore Manconi, il libro inizia con un'interessante citazione di Cronaca Rosa, come si fa a iniziare il carcere con una corona rosa, questo non lo so, ma qui lo spiega. È stata Belen, che pare che sia un'attrice forse conosciuta, a esprimere le considerazioni più pertinenti a proposito della condanna a 13 anni di carcere di Fabrizio Corona. Due personaggi abbastanza squallidi, se volete, no? Comunque, la donna, a quanto si sa, non viene da severi studi giuridici, ma evidenzia un buon senso, perché questa è la domanda, e risponde Manconi. Perché Belen, in un'intervista al settimanale Oggi dell'anno scorso, ha spiegato come mai il suo ex fidanzato Fabrizio Corona fosse finito nei guai. Lui ha un problema, ha fatto degli errori, dice sempre Belen, ma in realtà, se ascoltate bene, ma in realtà l'unico problema che ha sono i soldi. Lui, Fabrizio Corona, ha l'unico problema, i soldi, gli altri no. Secondo me, sempre dice la Belen, la condanna che dovevano dargli è una grandissima multa salata e basta. Lui è in galera perché ha una malattia per i soldi. Chiuse virgolette, quindi finite le parole. Le parole di Belen, dice Manconi, dimostrano che in modo tortuoso, implicito e contraddittorio la nostra ragionevole proposta corrisponde con il buon senso, che non è il senso, che non è il senso comune. L'esistenza della prigione sarebbe un dogma saggio perché è scontato, non razionale, frutto di una valutazione in termini di costi e benefici. Una persona invece, si chiami Belles Rodriguez o Luigi Manconi, se è informata e messa nelle condizioni di riflettere lucidamente, può giungere alle stesse conclusioni. La giornalista dice che il carcere vada abolito. L'esempio di Belen è significativo, dice Manconi, perché lei parlava di una persona che conosce in carne ed ossa. È un aspetto importante, perché si dovrebbero conoscere in carne e ossa i colpevoli quando si parla di pene e di carcere. Belen, che si basa sul buon senso e sulla diretta conoscenza, spiega che Corona ne ha fatti di tutti i colori solo perché è affetto da una sorta di patologia, una plutopatologia la chiamerei io, dice Manconi. Se allora si volesse ragionare razionalmente, tra violenza della norma e la pena da scontare, si capirebbe che bisognerebbe sottoporre Fabrizio Corona a sanzioni che lo tocchino nel portafoglio per colpirlo veramente. Al carcere è preferibile una sanzione, magari estremamente elevata, che lo costringa a lavorare di più anche nel futuro. In questo piccolo episodio di cronaca mondana e di cronaca nera c'è una lezione interessante, dice Manconi. Dice: la storia del carcere, scrivete, come modalità punitiva è relativamente recente. Prima si usavano le multe, la legge del taglione e le condanne a morte, dice sempre Manconi. E la giornalista dice: la legge del taglione è a suo modo garantista? Cioè, la legge del taglione è a suo modo garantista, è l'affermazione che fa Manconi, e la giornalista salta sui piedi e dice: come garantista la legge del taglione? Garantista, dice, conferma Manconi. Quando si dice occhio per occhio, cosa si intende? Solo un occhio per occhio che è stato tolto, e cioè una legge limitativa della pena fino alla legge del taglione. Se qualcuno cavava un occhio e veniva ucciso, la legge del taglione ha introdotto un principio sulla base del diritto penale moderno: la proporzionalità della pena. Cioè, fai tanto male, cosiddetto tanto male, e ne ricevi altrettanto. Questo è un po' il meccanismo. Comunque, sicuramente il carcere costituì un fattore di umanizzazione e ha sostituito la pena di morte. Fu un passo avanti. Ma per questo abbiamo in mano una carta in più nel nostro ragionamento a favore dell'abolizione del carcere. Si tratta di un progresso, ma come tale è superabile. Dice: il carcere ha superato i supplizi e la pena di morte, quindi sarà un passo avanti, ma si può andare ancora più avanti. All'epoca di Beccaria il carcere venne considerato adeguato, ma ora ha fatto il suo tempo. È un po' diverso sia il concetto del intanto da questa risposta della legge del taglione, eccetera. Sì, ne viene fuori un meccanismo molto semplice che fa vanificare il carcere. Quando dice è giusto che a Corona bisognava colpirlo laddove soffre più, dove? Nel portafoglio. E così dice, e la legge del taglione pure vorrebbe dire che bisogna abolire il codice penale, perché il codice penale uniforma le persone genericamente, dice: se una persona generica ha infranto la legge in questo punto, si prende tot anni di galera. Non va a vedere caso personale per caso personale, se no ci vorrebbe una pena per ogni persona che trasgredisce la legge. Quindi una cosa che fa saltare i criteri di equanimità, quindi si tornerebbe alla pena individuale, come era nell'antichità era fatta, perché appunto i signori per esempio non potevano essere puniti, mentre invece le punizioni erano l'illuminismo borghese, questo periodo in cui sia Beccaria sia Bentham sia tutti i cosiddetti riformatori sono figli di quell'epoca, avevano, per togliere però i soprusi, cioè il fatto appunto il fatto che se un principe, un figlio di un principe, cioè una persona, un nobile, faceva un reato gravissimo, in realtà gli davano uno scapaccione e finiva lì. Se invece una contadino, un pastore rubava una mela, gli veniva tagliata la mano, o ancora peggio. E allora chiaramente disse: no, bisogna equiparare le pene, cioè la famosa proporzionalità tra violazione della legge e pena subita. E lì hanno uniformato tutto, quindi è proprio cioè un discorso, ripristinare un meccanismo individualizzato della condanna significa scardinare i meccanismi che hanno creato e il codice penale e tutto quello che ne consegue, quindi la legge, la magistratura, il codice penale, il carcere e anche le condanne di carattere monetario, perché non possono essere uguali. Voi pensate il codice della strada, no? Per fortuna ancora non prevede il carcere per le inadempienze, le violazioni del codice della strada. Prevede però una multa. Allora, divieto di sosta è, ora scusate, dirò una baggianata, non lo so, immagino 60, 70, 80 euro, no? Quello che sia. Facciamo numero paro, 100 euro per un divieto di sosta particolare. Bene, 100 euro li paga sia il lavoratore edile che non sapeva dove andare a fare quei lavori in quell'appartamento perché doveva aggiustare, era stato chiamato d'urgenza, quindi deve andare lì, oppure l'idraulico deve andare lì, parcheggia dove capita perché l'hanno chiamato d'urgenza, fa il lavoro, gli danno 100 euro, scende giù, trova la multa, quei 100 euro pari pare li restituisce per la multa, no? A chi gliel'ha comminata. Se invece lo stesso divieto di sosta la fa una persona di alto, un notaio, un magistrato, che so, un professionista, una persona che c'ha un sacco di soldi, la multa è sempre uguale, è sempre 100 euro, quindi a quello gli è un baffo, è come se un pacchetto di sigarette, quindi la mette lì. Quindi anche la pena monetaria, siccome vanno uniformate le pene in questo sistema, questo è il problema, o si mette in discussione questo sistema oppure non si può tornare alla valutazione individuale della responsabilità e della colpa, altrimenti si rischia di cadere, anzi si cade, stante questa società, nel meccanismo di clientele, favoritismi eccetera. Il problema è un altro, è che non è tanto la condanna che deve essere individualizzata, è che ogni persona ha una sua storia, ha una sua biografia. Il carcere con la condanna, il codice penale, il carcere, tutta la struttura chiamata giustizia azzera la storia di ciascuna persona e la sua biografia, azzera e dice: siete nulla, siete zero, hai violato la legge, non mi interessa chi sei, che fai, dove stai, quelle cose al limite sono valutazioni di piccolo conto di cui il magistrato può tenere conto per fare piccole attenuanti o aggravanti, ma non cambiano la natura della condanna. Siete tutti uguali, siete tutti degli esseri astratti, avete violato la legge, io vi sbatto in galera, punto. E questo è il meccanismo della modernità che va messo in discussione oggi, visto che la modernità ne ha fatti di danni, perché altrimenti si torna dentro, c'è un meccanismo di razzismo, cioè questa popolazione, per questa popolazione questi sono i diritti e questi sono i doveri, a prescindere da dove tu sei, povero non ha importanza, tu sei miliardario non ha importanza, ecco, tutti uguali, che però uguali non sono. Perché appunto se mettiamo 1000 euro, 10.000 euro per esempio, togliamo il carcere, mettiamo 10.000 euro di multa per un reato che oggi è previsto 4 anni di carcere, uno dice sì, meglio, certo, è meglio la multa che non il carcere, però un lavoratore edile li può pagare 10.000 euro di multa? No, non li può pagare, quindi dovrà fare i salti mortali, si indebita per la vita, oppure non lo so, è quasi peggio, mentre invece per uno che per un ricco, un notaio, un proprietario terriero, un palazzinaro, è una bazzecola. Ecco, quindi come vedete il meccanismo che pure Manconi porta a giustificazione del suo discorso non è funzionale. Va bene, andiamo avanti. Sostenere che persino un boss, continua sempre Manconi, come Bernardo Provenzano, ritenuto e accusato e condannato come essere uno dei capi della mafia, quindi sostenere che una persona come Bernardo, come è segnalato dai medici dell'ospedale San Paolo di Milano, è oggi incompatibile con il carcere, ma il carcere è duro a vita, almeno nei casi di chi ha commesso e commissionato decine di omicidi, non è necessario? Questa è la domanda che fa la giornalista. Risponde Manconi: penso di dover dare due risposte molto distinte. Risponde Manconi: la prima risposta è che il carcere duro è un concetto privo di senso. Il 41 bis e il carcere di alta sicurezza non sono due regimi che dovrebbero esprimere l'asprezza della pena o la massima afflizione del condannato. Hanno un solo scopo: impedire e interrompere le relazioni tra il reo carcerato e l'organizzazione criminale da cui proviene e di cui è stato un esponente. Tutte le privazioni discendono da questo unico scopo, cioè troncare i rapporti con l'organizzazione criminale. Non è che il nostro ordinamento prevede da una parte un carcere che fa male 5 e un altro, quello duro, che fa male 50, cioè di più. Questa è, dice la, allora la giornalista domanda. La seconda risposta, cioè questa è la prima risposta, la seconda risposta è questa. Riguarda il caso specifico di Provenzano. Ritengo, dice Manconi, che Provenzano non debba uscire dal regime di 41 bis, ma dal carcere. Infatti il nostro regime prevede una compatibilità tra il carcere e le condizioni di salute. Provenzano è stato giudicato da 3 procure diverse come impossibilitato persino a partecipare ad un'udienza, perché per malattia appunto, perché è incapace di intendere e di volere, e il nostro ordinamento prevede che chi è incapace di intendere e di volere non può stare in carcere. Una delle implicazioni dell'incapacità di intendere è l'essere incapace di nuocere consapevolmente all'altro, quindi non potrebbe più fare attività criminale. Però qui si dimentica un'altra piccola cosa, che l'ordinamento italiano nel caso di essere incapace di intendere e di volere non prevede il carcere, ma prevede ieri l'ospedale psichiatrico giudiziario, cioè il manicomio criminale, che è molto peggio del carcere, l'abbiamo detto in mille salse, non noi ma tutti quelli che l'hanno bazzicato, che l'hanno conosciuto, ed oggi le REMS, che sono qualcosa a metà strada, insomma, no? Quindi comunque ti toglie la libertà totalmente, ti mette in mano ad altre persone ancor di più che il carcere. Quindi non è vero che se sei dichiarato, giudicato incapace di intendere e di volere riconquisti la libertà e nemmeno la possibilità di curarti autonomamente. Vieni messo in mano di altre persone che decidono come curarti, in pratica imbottirti di psicofarmaci, e come custodirti, quindi senza libertà. E vabbè, quindi va avanti su queste cose. In realtà, allora poi andiamo avanti. Secondo l'amministrazione penitenziaria, la percentuale di detenuti socialmente pericolosi è tra l'8 e il 10%. Quindi, parliamo anche questo termine, socialmente pericolosi. Questo è un retaggio molto vecchio, che deriva dall'inizio, da quando sorse il carcere. Parliamo quindi del 600, le case di lavoro, le workhouse. È nato in Inghilterra il carcere e in Olanda, i due paesi che per primi hanno sviluppato quella che si chiama la rivoluzione industriale, cioè il costruire grossi opifici, fabbriche con molto contenuto di manodopera, di lavoratori, e che per avere questi lavoratori a disposizione 24 ore al giorno li prendevano dalle campagne, perché prima quello facevano contadini, pescatori o pastori. Sono stati per portarli dalla campagna o dalla pastorizia in fabbrica, gli hanno dovuto togliere la terra, quindi l'espropriazione di massa. La storia dell'Inghilterra è questa, la grande espropriazione di massa, gente ridotta, che faceva i contadini, ridotta a non avere più niente di reddito, quindi nemmeno un pezzo di terra per tirarci fuori le patate, quindi zero di sussistenza, e quindi costretti a vendere la propria forza lavoro in una fabbrica, in un opificio, alle condizioni che dettava il padrone. Poi qualcuno scappava perché le condizioni erano disumane, veniva riacchiappato perché giudicato vagabondo, che è un po' come terrorista oggi. le leggi contro il vagabondaggio, ne sono pieni libri di storia, leggeteli perché sono significativi, i Vagabond Act, così definiti allora. E il primo fu il più importante, fu fatto nel 1597, pensate quanto, era una cosa agghiacciante, come i decreti di Hitler, forse peggio, e Hitler è figlio della cultura inglese, su questo non c'è dubbio, attenzione, nel senso che quelle forme di disciplinamento della popolazione Hitler le ha prese dalla cultura inglese e le ha fatte molto prima. Il Vagabond Act è una delle più feroci e violente leggi che in cui uno Stato impone non a rispettare delle leggi o altro, ma a dire alla gente quello che deve fare nelle 24 ore, decidere quando si alza, quando devi andare a lavorare, metterti sulla strada per andare a lavorare, quando devi mangiare, quando devi uscire, quando devi dormire, quando ti devi rialzare. Questa è quindi il carcere, non a caso il carcere e fabbrica sono in osmosi, l'una e l'altra si trasferiscono i saperi, carcere e fabbrica, quindi questo è il discorso. Quindi questo, e qui nasce il concetto di socialmente pericolosi. Chi sono i socialmente pericolosi, oppure detti asociali, cioè non sociali, o socialmente pericolosi? Sono quelle persone che, nonostante le workhouse, quindi le case di lavoro, la disciplina eccetera eccetera, le torture eccetera, non imparavano la disciplina dell'andare di consumare la vita per andare a lavorare al servizio di un altro. Queste persone venivano dichiarate, bollate come socialmente pericolose, asociali, perché appunto non erano, secondo loro, chi era sociale doveva accettare quei ritmi, chi non lo faceva era asociale o addirittura pazzo, e quindi comunque da relegare, da distruggere, da uccidere, da massacrare. Socialmente pericolosi perché questa loro volontà di non aderire a queste discipline poteva contagiare altre persone, quindi essere socialmente pericolosi, cioè la loro pericolosità diventava sociale, e questo è il quadro. Quindi già accettare questo termine, che va rigettato, perché quanto di più losco. Difatti molti nell'epoca, diciamo, liberale degli stati moderni, sul finire dell'Ottocento, con le rivolte, rivoluzioni della metà dell'Ottocento, il 48, il 71 eccetera, gli stati, quelli più liberali di altri, hanno abolito questo dato del socialmente pericoloso. In Italia è stato ripristinato, non a caso, dal codice Rocco, fatto in periodo fascista, perché appunto è tipico dei regimi un po' autoritari, fascisti, diciamo, il concetto di socialmente pericoloso. Riprenderlo con leggerezza, io avrei accusato il fatto che in Italia nel 2015 l'amministrazione penitenziaria ancora utilizza il termine socialmente pericoloso, bollando delle persone, l'8 e il 10%, quindi 5.000 persone, si sono 55.000, tra l'8 e il 10% sono più di 5.000, chiamate socialmente pericolose. È una cosa indegna, schifosa, abietta, vabbè. Quindi lui dice, infatti, sono 5.500 persone, di cui circa 55.000 detenuti oggi. Ci accontenteremo di liberare dal carcere gli altri 49.500 detenuti. Lui dice, quindi, facciamo così, allora, teniamo in carcere i socialmente pericolosi e liberiamo gli altri. Siamo consapevoli, dice Manconi, di avanzare una proposta molto radicale, ma non siamo mica scemi, non stiamo dicendo di liberare Riina, ma di partire dal detenuto massa, quello al più basso livello. È un po' il principio usato 50 anni fa, nella seconda metà degli anni 60, in alcuni paesi del nord Europa, Norvegia, Svezia in parte, in qualche caso anche l'Olanda, un po' la Finlandia, questi paesi misero in piedi un percorso che si chiamava decarcerizzazione. C'era un dibattito tra gli intellettuali di questi paesi, generalmente è rimasto relegato a questi paesi il grosso dibattito, con qualche intellettuale anche della Francia, dell'Italia, eccetera, intorno al tema dell'abolizionismo. Si diceva che il carcere, già allora, il carcere era riproduzione dello schiavismo e della tortura. Perché? Perché quelle persone, siamo negli anni 60, era molto vicino il trauma dei campi di sterminio di tipo tedesco. Campi di sterminio che chi l'aveva vissuti, ma anche chi non l'aveva vissuti, ma soltanto analizzati, erano praticamente delle carceri. non era una follia di Hitler o dei nazisti il campo di sterminio, era semplicemente un gradino più avanti, spingere alle estreme conseguenze il concetto concentrazionario che è nel carcere. Cioè, quando hanno analizzato, e che uno dei maggiori intellettuali che per fortuna si era salvato dal campo di concentramento, Primo Levi, ha portato questo ragionamento in giro per l'Europa, per il mondo, anche in Italia, anche se nessuno l'ha capito, ma non era colpa sua, ma colpa di chi allora non ascoltava le cose importanti perché doveva aderire alla religione del consumismo. Il problema c'era farsi la televisione, il frigorifero, la lavatrice, la macchina, cioè non gli fregava niente di capire perché erano nati i campi di sterminio nel cuore dell'Europa. Ebbene, questi uomini salvati, uomini e donne che si erano salvati dai campi di sterminio, dissero: guardate che non è un prodotto di folli, di pazzi, di criminali, è semplicemente portare il carcere, ciò che c'è nel concetto di carcere, alle estreme conseguenze. Quello è il campo di concentramento. C'è una linea diretta, un filo tra il carcere e il campo di sterminio, non c'è una rottura, sono la stessa cosa, più avanzata. Quindi bisogna, e nacque tutto questo dibattito sull'abolizionismo: liberiamoci dal carcere, così faremo in modo che quella mostruosità non si riproduca più. Queste persone non sono state ascoltate, e però da qualche parte, appunto, come nel nord Europa, la Norvegia ha subito pesantemente i campi di concentramento, e quindi insomma praticarono la decarcerizzazione, che era un po' questo concetto che riprende, dice: noi cominciamo a svuotare il carcere dal basso, dai reati più piccoli, bagatellari, quelli piccoli, noi cominciamo dal basso, leviamo e troviamo misure alternative, forme diverse, i lavori socialmente utili, però il carcere non deve esistere. E sono arrivati infine perfino a portare il carcere, credo in Norvegia arrivarono a 250 detenuti in tutta la Norvegia in carcere, che erano quelli dei reati maggiori, quelli di sangue, quelli contro la persona. Gli altri erano stati sostituiti da sanzioni diverse. Questa è la decarcerizzazione. Quindi, però, c'è tutto un percorso, c'è tutta una storia lunga, è durata 10 anni questa storia, poi è fallita, è saltata. Perché è saltata? Perché l'arrivo delle droghe pesanti, l'eroina, che ha cominciato a distruggere giovani vite anche lì, e soprattutto in Nord Europa, più che qui, comunque ovunque, in tutta Europa, in tutto il mondo, ha creato uno stato di panico senza che si affrontasse seriamente il tema del perché un ragazzo o una ragazza, anche se in condizioni economiche dignitose, si buttava nell'uso degli stupefacenti forti, l'eroina. Perché non ci si è posto questo interrogativo, non si è andato a cercare le responsabilità della società, della famiglia, del sistema padri figli eccetera eccetera, e per cercare il motivo di quello tendenza. Si è detto: la colpa è degli spacciatori, arrestiamoli tutti. Questo panico ha prodotto l'imbecillità totale che ha riempito di nuovo le carceri, che invece erano state quasi svuotate. Questo in Nord Europa. Nei paesi del Sud Europa non sono state mai svuotate, sono rimaste cariche prima e cariche dopo. Si è alzato il numero, si è alzato dagli anni 80, 90 eccetera, ma soprattutto dopo gli anni 90, negli ultimi 20 anni si è incrementato in tutta Europa il numero dei detenuti, fino ad arrivare, appunto, l'Italia qualche tempo fa, quando la Corte Europea l'ha sanzionata, era arrivata quasi a 70.000 presenze. E insomma, vabbè, quindi produce questo discorso. Allora, quando si riproduce un fenomeno già avvenuto, la decarcerizzazione, cioè interessante, con degli scritti fatti bene, interessanti, con delle procedure molto ben articolate, che avevano veramente quasi svuotato il carcere, e si sarebbe continuato questo svuotamento dal basso, poi bisogna capire perché è fallito. Perché evidentemente il carcere, e va detta questa cosa, è una struttura di questa società, non viene da Marte, da Luna, dalla pazzia di qualcuno o dalla cattiveria di qualcuno, no, è strutturale a questo tipo di società. È nata insieme alla società moderna, insieme alla fabbrica, insieme allo Stato, insieme a queste strutture della società moderna, ed è l'altro pilastro. Una è la fabbrica, dove si sfruttano i lavoratori, per fare capitali, ricchezze, grandi opere, eccetera. Dall'altra parte si viene lì il terrore, cioè il carcere, per terrorizzare quelli che non vogliono accettare questi modelli. Queste due cose sono difficilmente separabili. Cioè un sistema, il sistema di Fabbria, che poi oggi dicono non c'è più la Fabbria, sta spazzata, ci stanno le finanziarie uguali, non cambia, non è che cambia il tipo di lavoro che fai per essere sfruttato. Sei sfruttato se lavori al servizio di un altro, per conto di un altro sistema, ed è il tuo lavoro esiste finché quelle persone, una o tante che siano, se sono azionisti, non ha importanza quanti siano e chi siano, importante che hanno un capitale, una montagna di soldi in grado di creare quei posti di lavoro oppure di annullarli. Quindi tu lavori in funzione di altri e fino al momento in cui questi altri ritengono che il tuo lavoro gli dà loro dei profitti, e quindi ti mantengono al lavoro, sfruttato. Quando non reputano che non, il livello di profitto non è così alto come lo vorrebbero, ti prima ti spazzano via e sei una nullità. Per rifarsi, ciascuno paga il suo, perché Dio senza fermarsi. Vittime e complici dell'incapacità di amare, ad ognuno il suo, tutto in una notte. Ci riprendiamo tutto, ma dove per la morire? Morti perché non siete vivi. Vieni, portami lontano. Ripeto di notte in sani, noi complici contro questo malato mondo che ci stringe e che ci opprime. Portami lontano da qui, trascinami via per non pensare, per non strapparmi il cuore, per non strapparmi il cuore. Che confusione, ripeto di notte in sani, noi complici contro questo malato mondo che ci stringe e che ci opprime. E allora 15:47 riprendiamo. Poi Manconi passa a questioni molto più sensate, no? Tipo queste, dice: nella massa il 25-30% dei detenuti sono tossicomani o persone legate al mercato della droga. Il tossicomano ovviamente dovrebbe essere ovunque eccetto in carcere, questa è una ovvietà che sappiamo tutti. Per circa 12.000 persone le misure dovrebbero essere allora le comunità di recupero oppure i domiciliari. Poi le persone legate ai piccoli e medi traffici di droga, un'altra decina di migliaia di persone. Il sistema sanzionatorio è abnorme, prevede pene eccessivamente alte, questo sempre per quel motivo. Bisogna criticare la società quando si è queste cose, ci centriamo tutti in questa critica. Quando appunto esplose, che ha fatto fallire, come dicevo prima, la decarcerizzazione del Nord Europa, perché non ci si è posto il problema del perché i ragazzi e ragazze di 17, 18 anni, 20 anni si facevano di eroina, perché si sono buttati in quel, se non ci si fa queste domande, la colpa non è dei spacciatori. In genere lo spacciatore esiste perché qualcuno chiede droga, altrimenti no, è il mercato, è la domanda che crea l'offerta, non è il contrario. Se nessuno va a comprare la mortadella, quello che vende la mortadella chiude, è ovvio, no? Non è che quello vende la mortadella e quindi ci impone di comprare la mortadella. La compriamo la mortadella perché ci piace e quindi quello che la vende ce l'ha sul bancone. Vabbè, poi dice vabbè, c'è il problema della depenalizzazione, poi dice anche queste cose importanti, dice che in Francia, dice, vabbè, insomma, molte, si può, il codice penale prevede 35.000 reati che possono essere depenalizzati, cioè in cui le sanzioni siano di altro tipo che non penali, cioè senza l'uso del carcere. 35.000 reati, si potrà diventare legge questo? Lui risponde, dice, rispondo con un numero, dice Manconi, in Francia finisce in carcere il 24% dei condannati, gli altri sono sottoposti solo a sanzioni, sanzioni non carcerarie, economiche, amministrative, cioè. Non stiamo quindi parlando di una proposta utopica, serve una volontà politica. E devo ammettere che ultimamente si è cautamente manifestata, e qui Falce cita chi in qualche modo ha detto però soltanto a parole, il ministro Andrea Orlando ha una volontà riformatrice solida, dubbi per me molto grossi. Comunque, esattamente una settimana fa si è impegnato a eliminare il problema dei bambini in carcere, meno male, questa cosa gridava vendetta. Comunque qui finisce l'intervista, insomma, come vedete c'è qualcosa di buonsenso, queste ultime due, i tossicodipendenti, ci mancherebbe altro, oppure vabbè, addirittura i bambini, il fatto che la gran parte dei reati potrebbero essere portati diciamo non attraverso il carcere ma in misura alternativa, e qualche piccola correzione è stata fatta e adesso ne vediamo subito una sulla custodia cautelare, però attenzione, non è quello il problema, cioè quello è un problema, è chiaro, da una persona in carcere mandarla in misura alternativa per chi sta in carcere è una boccata d'aria, d'ossigeno, per cui stiamo dalla parte di questo percorso. Però attenzione, questo percorso, cioè trasformare la detenzione in carcere in misure alternative, ha con sé dei grossi rischi e pericoli. Trasportare il controllo penale, che normalmente sia in carcere, sul territorio dove uno vive. Che vuol dire? Vuol dire che non bisogna andare in misura alternativa? No, bisogna andarci, però bisogna fare in modo che nel territorio dove la persona poi va agli arresti domiciliari oppure a vivere, insomma, a fare lavori socialmente, cioè dove va a passare la sua parziale libertà, perché viene sempre su di lui o su di lei esercitato un controllo pesante, devono sorgere dei comitati di persone in grado di tutelare. La persona non viene tutelata dalla legge nel momento che, perché la legge è controllo asfittico, è schedatura di tutti gli amici, i compagni di lavoro, le persone che frequenta, e questa cosa bisogna fare in modo che non avvenga, altrimenti è come trasportare il carcere all'interno del territorio. Attenzione, non è quindi una cosa, è una cosa da appoggiare, va bene togliere le persone dalla galera, ci mancherebbe altro, però siccome ha con sé dei rischi, bisogna accompagnarla con la crescita, la costruzione della crescita di organismi auto-organizzati, di persone nel territorio che sappiano controllare anche queste cose. Fare in modo che la repressione, quella prima o dopo la condanna, sia attenuata e poi ovviamente eliminata, e questo si può fare non anche qui ricorrendo a leggi, leggine, regolamenti o altre cose, ma intervenendo sul territorio. Chi comanda nel territorio? La polizia oppure i proprietari, gli abitanti di quel territorio auto-organizzati? E questo è così come nel posto di lavoro in fabbrica, chi comanda sull'organizzazione del lavoro, che oggi prevede anche grazie ai provvedimenti governativi un innalzamento della produttività, ossia dei ritmi, ossia della fatica, ossia dei carichi di lavoro, quindi stress, fatica, incidenti, massacri, questo prevede la situazione attuale nei posti di lavoro. Allora anche lì, chi comanda sull'organizzazione del lavoro? Il padrone con i suoi accoliti oppure l'organizzazione dei lavoratori? Ecco, i punti centrali si giocano su questi due terreni. Chi comanda sull'organizzazione del lavoro nei posti di lavoro, chi comanda sul territorio laddove si vive. O risolviamo questi due problemi oppure il carcere ci sotterrerà, perché il carcere si espanderà fino a integrare, a inglobare i territori. E qui arriviamo all'altro problema, e lo facciamo senza stacco musicale perché il tempo scorre. Dunque, è diventata dal qualche giorno fa, l'8 maggio, completamente diciamo vigente le novità, quelle della riforma della custodia cautelare, il carcere preventivo. Ricordate che uno dei punti centrali della critica dell'Europa, della Corte Europea alla situazione delle carceri italiane era sì il sovraffollamento, ma non solo quello, anche se tutta la stampa e i giornali ci hanno puntato sul sovraffollamento perché non sanno leggere manco i documenti, non l'hanno letto, i giornalisti, purtroppo, i documenti che uscivano dalla Corte Europea. La Corte Europea diceva sì il sovraffollamento, ma non era solo quello, anzi un punto centrale era l'alto numero delle persone non ancora condannate, cioè in custodia cautelare o carcere preventivo, cioè persone arrestate, tenute in carcere, avendo in corso il processo non ancora concluso, addirittura nemmeno il primo grado, in qualche caso il primo grado concluso ma c'era la richiesta d'appello, quindi non erano state ancora condannate in via definitiva. Era arrivato al 40%, un numero inaccettabile, e la media europea sappiamo è il 15%. Quindi allora i provvedimenti dei governi hanno dovuto abbassare e rivedere la custodia cautelare, ed è entrato in vigore tutti i provvedimenti fatti, sono entrate in vigore le nuove norme della custodia cautelare. La legge 47 del 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 aprile scorso, e quindi è in funzione. Che cosa cambia? Cambia notevolmente la vicenda, perché mentre prima il giudice poteva, il giudice dell'udienza preliminare di una persona inquisita, se le denunce, le imputazioni erano forti, poteva dire vabbè, aspettiamo, continuiamo l'inchiesta, avviamoci al processo e facciamo stare questa persona in carcere. Oggi non lo può più fare. Se una persona deve arrivare al processo stando in libertà per una serie di motivi. In primo luogo, dal punto di vista del diritto, è il diritto della difesa. Una persona che sta in carcere difficilmente può difendersi, perché gli incontri con l'avvocato sono molto difficili, e comunque l'avvocato si deve recare in carcere con tutto, perde un sacco di tempo andando in carcere, si può parlare in maniera poco efficace tra detenuto e avvocato che sta dall'altra parte del vetro, poi non può ragionare, preparare la sua difesa, quindi si lede. Il carcere preventivo lede i diritti della difesa, primo punto. E secondo punto, il problema è che crea un carcere preventivo che poi, se la persona viene assolta, rimane come un sequestro di persona, una violenza gratuita, e quindi cozzava contro due principi centrali del diritto, che ovviamente sono principi quasi mai messi in pratica, però visto che stanno qui, e quindi hanno detto che il giudice, se vuole mettere una persona in carcere, tenere una persona in carcere prima del processo, prima della condanna, a meno che i soliti reati, quelli contro mafia, delinquenza organizzata, terrorismo eccetera, per tutti gli altri reati deve fare una dettagliata analisi della condizione di questa persona, dimostrando che questa persona, se lasciata libera, potrà veramente scappare, oppure manomettere le prove. Se non può fare questo, chiaramente lo deve lasciare, fare le altre misure di controllo, cioè appunto le firme, oppure gli arresti domiciliari o altre cose di questo tipo. Ve ne sono tante che non prevedono il carcere. Quindi è stata ritoccata, cambiata il concetto della custodia cautelare. Anche qui chi se ne gioverà molto? Ovviamente chi ha dei buoni avvocati, perché come vedete, quindi anche le piccole riforme del carcere, in questo senso è venuta dall'esterno questa riforma imposta, quella riforma della custodia cautelare, non tanto da un dibattito interno a questo paese, questo è fatto molto negativo. La Corte Europea ha detto guardate che state trasgredendo addirittura i principi generali del diritto, quindi non va bene questa cosa qui, rivedete il numero delle persone in custodia cautelare, non può essere così alto, deve essere intorno al 15%, questa è la media, visto il tipo di reati che si fanno, rimanendo quelli gravi, d'accordo, no? Quindi abbiamo detto malavita organizzata, mafia, camorra, cioè tutta questa roba qui, terrorismo, spaccio internazionale eccetera, questi qui va bene, ma gli altri vanno visti caso per caso, va visti se possono, e se vuoi metterli in galera, caro giudice, devi fare una relazione dettagliata, sostenuta anche da analisi della polizia, in cui si dice questa persona potrebbe scappare, o manomettere le prove se messa non in carcere, ed è difficile, crea anche un lavoro in più per il giudice, quindi probabilmente diminuirà, probabilmente, ma chi diminuirà? Diminuirà quelli che si costruiscono un buon avvocato, che mette in difficoltà il giudice dicendo, creandogli delle difficoltà a sancire che quella persona deve essere tenuta in galera perché potrebbe appunto fuggire. Cioè, se uno è un buon avvocato, quindi chiaramente utilizzerà questa cosa e non andrà in carcere prima del processo. Se uno ha l'avvocato d'ufficio, insomma, è molto difficile che ne potrà godere di questa riforma. Questo è il problema. Anche le riforme, diciamo, di buona levatura o comunque di miglioramento delle condizioni come queste, dovute, lo ripetiamo per l'ennesima volta, sempre da meccanismi esterni, è chiaro, cioè dalla Corte Europea è venuta, non è venuta mica da loro, è chiaro che lo potrà fare se e qual è il se c'è un buon avvocato, quindi se appartiene alle classi delle persone abbienti, se no è difficilmente.